www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. Mezzanotte. È l'ora di un sacco di cose diverse, tra cui streghe, fantasmi, orge, stupri e assassini. L'ora in cui le nebbie invernali calano sui campi e sulle città. Queste città del XXI secolo che hanno paura di finire e si estendono sempre di più a coprire zone incolte inospitali e per sempre strappate al loro destino di aria disabitata. Capannone dopo capannone, la città si impossessa del niente. E nel niente della nebbia, finalmente, a mezzanotte, sparisce. Nel bel mezzo del niente. In the middle of nowhere. Terreni recintati, luci gialle che fanno fatica a bucare la coltre di nebbia, freddo e puzza. Una puzza che ammorba l'aria per chilometri e chilometri e che inspiegabilmente attira lì intorno misteriose creature che vagano senza pace nella notte. Ma ecco che a fatica emerge dai miasmi e dai vapori di questa orribile contrada la sagoma possente e tormentata di una grande fabbrica. La sagoma inconfondibile e tristemente conosciuta di... La fabbrica di polli. Una gigantesca scatola di cartongesso che contiene al suo interno centinaia di migliaia di polli, tutti uguali, tutti destinati a nascere, vivere e morire senza mai vedere la luce del sole, senza mai arrivare a capire veramente quello che gli succede intorno e senza avere mai la possibilità di scegliersi una fine diversa. Ma chi si nasconde dietro i recinti di filo spinato che circondano questo olezzante tempio dello sterminio di massa? La puzza diventa insostenibile man mano che ci si avvicina allo sfiato generale, ma è proprio da una grata difettosa dello sfiato generale che si può agevolmente accedere all'interno della fabbrica. Benvenuti nella fabbrica di polli. Attenzione, un avviso a tutte le ovaiole: se non aumentate la produzione del 20% vi spostiamo nel reparto carne da macello, così non ci pensiamo più, chiaro? E non fatti prendere sbattimento, se no poi la borsettina non mi basta più, capito? Hai capito che è tutta, Rec? Pastasciuta. Eh no, non hai capito allora. Cerca di non mandarmi sbattimento anche tu, Sono qui parto a roccolare, cazziatori, quello lì è... pirate. Ma no, impossibile. Sì, è lui. No, impossibile, capo, non Drago, è lui. Ma questa voce, questa cattiveria. Ma che in effetti è lui. È lui, guarda. Dove è già che sto lavorando? Drago, questa... sì. Ma qua sotto. Quello lì è... Pollo in sbattimento. Poi allora, ma cos'è sta cagnara? No, sono Dai, è una sorpresa vederti. Tu, Tarek. Sì, quando arriva l'ospite un po' a sorpresa, come in questo caso tu e Tarek, ci va lo stacchetto, come in televisione, si enfatizza un po'. Io ho capito, ma cosa c'entra Lavanoni? Cosa ci fate qua, tu e Tarek? Qui diamo ordini alle galline ritardate. Vabbè. Sì, vabbè, ma tu e Tarek vi eravate ritrasformati in uomini, mi sembra. Poi avevate usato l'automobile di Drago. Automobile. La mia automobile, a proposito. Poi noi ci eravamo trasformati in polli, tipo... Però non mi ricordo bene poi cosa è successo. E fatto sta che tu e Tarek non dovreste essere qua. Dite un po', io sono rientrato poco tempo fa dalla Romania. Dalla Romania? A Romania? E adesso comunque non ho tempo, io ho il lavoro che mi pressa e sapete che quando mi pressano... Vabbè. Ma com'è che sei arrivato dalla Romania? Sì, io e Tarek siamo andati là a farci un giro e poi siamo tornati alla fabbrica. In Romania? Sì, ma lo sentite questo qua? Adesso parla. Dice pastasciutto. Non dice più speck, brie, patate d'olive, ma pastasciutto. Però, scusa, Pollo, non ho capito. Siete andati in Romania a fare cosa? E poi perché siete tornati? Il richiamo della pasta asciutta. Ma sta zitto! Il richiamo della pasta asciutta. Il richiamo della pasta asciutta. Allora, adesso devo continuare a minacciare le galline ritardate. Minacciarle. Ed è il mio nuovo lavoro, Sì, minacciare. E mi pagano, E mi pagano in paroxetina. Vabbè, allora. Allora, basta con queste lamentele, massa delle imbambite. E dateci dentro con queste uova, no? Pollo, ma calmati. Io sono curioso di sapere cosa è successo, insomma, dai. Voglio sentire i plop delle uova che escono dalla vostra cloaca. Ho paura che dovremmo accontentarci. E di cosa? Di rimanere qui per un bel periodo indefinito, probabilmente lungo. Sì, ma più che di accontentarsi, si tratta di rassegnarsi, quindi rassegnati. No, come la rassegnazione è un sentimento che il mio codice genetico non considera. Vabbè, allora è meglio che il tuo codice genetico impari ad analizzare la dura realtà. E la dura realtà è che qui siamo in una fabbrica di polli. Vabbè, sai che novità. Oltretutto, non solo siamo in una fabbrica di polli, ma ormai possiamo dire che la fabbrica è casa nostra. Un giaciglio qui non manca mai, guarda qui. Un giaciglio non manca mai. Guarda, guarda che bello. Alla scuola svizzera, Drago, mi hanno insegnato che lamentarsi è una cosa da decadenti borghesi. Quindi, guarda qui, in mezzo alla paglia e alla cacca di gallina troviamo il nostro giaciglio. Decadenti borghesi. Sì, sì. Perché un popolo lagnone, Drago, non potrà mai raggiungere alcun risultato. Scusa, ma in che anni l'hai frequentato? Questa scuola dal 34 al 45. E che culture und civilisation dei popoli mediterranei sono ammorbati dalla radice del victimismus mortalis. Kappa, smettila di dire fesserie. E ben poi... per questo che noi in Svizzera venivamo buttati nudi in acqua gelata a 6 di mattino e fatti petalare su tornanti di Canton Uri mentre infuriava tempesta. Ma mi dispiace per e voi. E ben per questo che venivamo lanciati a velocità supersonica legati a un slittino singolo giù da una pista da bordo bagnata con gomma di acqua a temperatura di meno 18 gradi. E tutto questo nel buio assoluto di una notte senza luna. Che cosa succederà adesso? Kappa e Drago si sveglieranno nei loro letti capendo di aver soltanto vissuto un brutto sogno? Oppure è tutto dannatamente vero e la loro esistenza si svolgerà di nuovo in questo ambiente malsano? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo inaspettato allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non quasi mai.